eccoti di nuovo qui, dove non sei stato mai. Meglio di così. Senza aiuti, complici. Quello che ora sai di te non riesci a dirtelo. Pur di non deluderti, non di certo per pietà di te, so che sembra tutto inaccettabile, ma è così che si rivela ciò che sei. Guardi il più prezioso dei ricordi vacillare, ma sei vivo più che mai, ora più che mai. Quanti strazi inutili nel tempo curvo di una vita. Quella che volevi tu non è più possibile. Ma quando tornerai da te, ai piedi del tuo sguardo, forse ti convincerai tra te e te, ti ringrazierai. Può sembrare tutto irrinunciabile, ma non ti serve altro che non sia dentro di te. Tolto il cielo sotto i piedi all'improvviso, sei caduto nudo in mezzo al buio, nudo in fondo al buio. So che sembra tutto inaccettabile, ma è così che si rivela ciò che sei. Dei ricordi vacillare, ma sei vivo più che mai, ora più che mai.